La questione del peccato è di vitale importanza. Vi sono persone che non vogliono saperne di sentire parlare di peccato, altre si beffano dei comandamenti di Dio, per quanto l'uomo ne dica. Però il peccato degli uomini determina il benessere del tempo presente e di quello futuro. Ecco cosa dice il profeta Geremia in proposito. Ma questo popolo ha un cuore ostinato e ribelle. Si voltano indietro e se ne vanno. Non dicono in cuor loro: temiamo l'Eterno, il nostro Dio, che dà la pioggia a suo tempo, la prima e l'ultima pioggia, che mantiene per noi le settimane fissate per la mietitura. Le vostre iniquità hanno sconvolto queste cose e i vostri peccati tengono lontano da voi la prosperità. Geremia 5:23. Le condizioni atmosferiche e la prosperità di una nazione, quindi, sono condizionate dal comportamento dell'uomo. Non solo. Il peccato condiziona anche il rapporto dell'uomo con il suo creatore, lo separa da Dio. Il profeta Isaia si esprime così: ma le vostre iniquità hanno prodotto una separazione fra voi e il vostro Dio, e i vostri peccati hanno fatto nascondere la sua faccia da voi, per non darvi ascolto. Isaia 59:2. Infine il peccato impedirà all'uomo di entrare nel cielo. Ma per i codardi, gli increduli, gli immondi, gli omicidi, i fornicatori, i maghi, gli idolatri e tutti i bugiardi, la loro parte sarà nello stagno che arde con fuoco e zolfo, che è la morte seconda. Apocalisse 21:8. Ignorare il peccato, come sottovalutarlo, è l'errore fatale che l'uomo possa commettere nella vita. Noi abbiamo bisogno innanzitutto del perdono dei peccati, perché senza perdono il benessere, la comunione con Dio e l'entrata nel regno dei cieli ci sono preclusi. Possono essere perdonati i peccati? Una risposta negativa condannerebbe ogni essere umano a vivere nella più profonda disperazione. Ma, poiché tutte le religioni insegnano che i peccati possono essere perdonati, esprimiamo questo interrogativo con speranza. Chi può rimettere i miei peccati? A questa domanda angosciante e di vitale importanza, la religione cattolica ritiene di avere una risposta. Se fosse una sua risposta, si potrebbe anche ignorare, perché di risposte azzardate ce ne sono tante. Ma poiché essa ritiene che la risposta sia conforme al volere di Dio, conviene prenderla in considerazione. Da dove trae la sua risposta la religione cattolica romana? Dalla Bibbia, la parola di Dio. Questo induce ogni figlio di Dio a valutare attentamente la risposta della religione cattolica. Se questa fosse giusta, l'uomo avrebbe la soluzione al suo più grande problema. Rivelandosi sbagliata, invece, la religione cattolica avrebbe commesso il più grande errore che un apparato religioso possa commettere. Leggiamo il testo biblico da cui la religione cattolica trae la sua risposta. Poi Gesù, giunto dalle parti di Cesarea di Filippo, domandò ai suoi discepoli: chi dicono gli uomini che io il figlio dell'uomo sia? Ed essi dissero: alcuni Giovanni Battista, altri Elia, altri Geremia, o uno dei profeti. Egli disse loro: e voi chi dite che io sia? E Simon Pietro, rispondendo, disse: tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente. E Gesù rispondendo gli disse: tu sei beato, o Simone, figlio di Giona, perché né la carne né il sangue ti hanno rivelato questo, ma il Padre mio che è nei cieli. Ed io altresì ti dico che tu sei Pietro, e sopra questa roccia io edificherò la mia chiesa e le porte dell'inferno non la potranno vincere. Ed io ti darò le chiavi del regno dei cieli. Tutto ciò che avrai legato sulla terra sarà legato nei cieli, e tutto ciò che avrai sciolto sulla terra sarà sciolto nei cieli. Allora egli ordinò ai suoi discepoli di non dire ad alcuno che egli era Gesù, il Cristo. Matteo 16:13-20. La religione cattolica romana apostolica vede nella promessa di Gesù, rivolta a Pietro: tutto ciò che avrai legato sulla terra sarà legato in cielo, e tutto ciò che avrai sciolto sulla terra sarà sciolto nei cieli, l'autorità di rimettere i peccati. Questa pretesa autorità è stata trasmessa in seguito ai suoi presunti successori. Interpretando in tal modo il testo in questione, il cattolicesimo romano ritiene che Gesù abbia voluto fondare la Chiesa di Cristo non su se stesso, ma su Pietro. Da ciò fa discendere la dottrina del papato, che fa del vescovo di Roma il capo supremo della cristianità, su tutta la terra. Il potere di legare e sciogliere, dato a Pietro, sarebbe passato alla Chiesa, che sarebbe la religione cattolica romana fondata su di lui. Così soltanto la religione cattolica avrebbe la legittima autorità di rimettere i peccati ai fedeli attraverso il sacramento della confessione e del sistema penitenziale in nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Ma questa pretesa di perdonare i peccati è in netto conflitto con ciò che afferma la Scrittura, cioè che solo Dio può perdonare i peccati commessi degli uomini. Leggiamo in Marco 2:1-7. Alcuni giorni dopo, egli entrò di nuovo in Capernaum e si venne a sapere che egli si trovava in casa. E subito si radunò tanta gente da non trovare più posto neppure davanti alla porta, ed egli annunziava loro la parola. Allora vennero da lui alcuni a presentargli un paralitico, portato da 4 uomini. Ma, non potendo accostarsi a lui a causa della folla, scoperchiarono il tetto sul punto ove era Gesù, e, fatta un'apertura, calarono il lettuccio sul quale giaceva il paralitico. Come Gesù vide la loro fede, disse al paralitico: «Figliolo, i tuoi peccati ti sono perdonati». Or vi erano là seduti alcuni scribi, i quali ragionavano in cuor loro: «Perché mai costui parla in questo modo?» Egli bestemmia. Chi può perdonare i peccati se non Dio solo? I giudei conoscevano bene le Scritture. Essi sapevano che, secondo la rivelazione di Dio, solo l'Eterno Dio può perdonare i peccati. In effetti essi avevano in mente sia il Salmo 32, sia ciò che aveva scritto Isaia. «O beato colui la cui trasgressione è perdonata, il cui peccato è coperto! Beato l'uomo a cui l'Eterno non imputa l'iniquità, e nel cui spirito non cerca e inganno! Mentre tacevo, le mie ossa si consumavano tra i gemiti che facevo tutto il giorno. Poiché giorno e notte la tua mano pesava su di me, il mio vigore era diventato simile all'arsura d'estate. Davanti a te ho riconosciuto il mio peccato. Non ho coperto la mia iniquità. Ho detto: confesserò le mie trasgressioni all'Eterno. E tu hai perdonato l'iniquità del mio peccato». Salmo 32:1-5. O io, proprio io, sono colui che per amore di me stesso cancello le tue trasgressioni, e non ricorderò più i tuoi peccati. Isaia 43:25. Nessun uomo, quindi, può rimettere i peccati che il prossimo commette verso Dio. Ne consegue che non sia saggio emanare dei dogmi che contrastino con le precise rivelazioni da parte di Dio. È vero che alcuni studiosi cattolici romani puntualizzino che il cattolicesimo non sosterrebbe la possibilità di perdonare i peccati, bensì quella di assolverli, ma sono solo disquisizioni di parole, che non corrispondono alla realtà. Prima di tutto, perché nel Catechismo della religione cattolica, all'articolo 10, dal titolo «Credo la remissione dei peccati», paragrafo 976, leggiamo: «Il simbolo degli apostoli lega la fede nel perdono dei peccati alla fede nello Spirito Santo, ma anche alla fede nella Chiesa e nella comunione dei santi. Proprio donando ai suoi apostoli lo Spirito Santo, Cristo, risorto, ha loro conferito il suo potere divino di perdonare i peccati. Ricevete lo Spirito Santo. A chi rimettete i peccati saranno rimessi, e a chi non li rimettete resteranno non rimessi». Giovanni 20:22-23. Il Catechismo usa il verbo perdonare e non assolvere. E perché vi sia chiarezza in ciò che vuole intendere, cita il passo di Giovanni, dove Gesù ordina ai discepoli di rimettere i peccati. Se il cattolicesimo avesse voluto intendere di avere l'autorità di assolvere il peccatore, come atto distinto dal rimettere, non avrebbe citato, come supporto, la parola di Dio che conferisce l'autorità di rimettere i peccati. Inoltre, la quasi totalità dei cattolici crede che il sacerdote rimetta i peccati. Se i cattolici hanno questa convinzione, che del resto avevo anch'io quando ero giovane, non è dovuto alla loro ignoranza, ma in seguito a ciò che viene insegnato loro. Se la religione cattolica romana insegna di avere la legittima autorità di rimettere i peccati commessi verso Dio e i fedeli attraverso il sacramento della confessione, quando invece la parola di Dio afferma che solo Dio può rimettere i peccati, le possibilità sono due: o Dio ha cambiato opinione, oppure la riposta e pretesa della religione cattolica romana è sbagliata. Ma poiché la scrittura, come disse Gesù, non può essere annullata, per rispondere a questi interrogativi, applichiamo il principio che la scrittura si interpreta con la scrittura. Notiamo, due capitoli più avanti, che Gesù indirizzò a tutte le persone le stesse parole che aveva rivolto a Pietro al capitolo 16, cioè ordinò di perdonare il prossimo in caso che questo lo avesse offeso. Leggiamo l'episodio in Matteo 18, 5-22. Ora, se il tuo fratello ha peccato contro di te, va e riprendilo fra te e lui solo. Se ti ascolta, tu hai guadagnato il tuo fratello, ma se non ti ascolta, prendi con te ancora uno o due persone, affinché ogni parola sia confermata per la bocca di due o tre testimoni. Se poi rifiuta di ascoltarli, dillo alla Chiesa. E se rifiuta anche di ascoltare la Chiesa, sia per te come il pagano e il pubblicano. In verità, vi dico che tutte le cose che voi avrete legate sulla terra saranno legate nel cielo, e tutte le cose che avrete sciolte sulla terra saranno sciolte nel cielo. Ancora io vi dico che se due di voi si accordano sulla terra per domandare qualunque cosa, questa sarà loro concessa dal Padre mio che è nei cieli. Poiché dovunque due o tre sono riuniti nel mio nome, io sono in mezzo a loro. Allora Pietro, accostatosi, gli disse: Signore, se mio fratello pecca contro di me, quante volte gli dovrò perdonare? Fino a sette volte. Gesù gli disse: Io non ti dico fino a sette volte, ma fino a 70 volte 7. Ciò che Gesù disse a Pietro non ha nulla a che fare con la dottrina del cattolicesimo romano, secondo il quale una casta particolare avrebbe il potere di perdonare le offese e, quindi, i peccati. Quale delusione avranno in cielo tutti coloro che abbiano ottenuto l'assoluzione dei peccati commessi verso Dio e il prossimo da un religioso? Infine, quando Gesù ordinava di perdonare le offese ricevute, intendeva riferirsi ai rapporti sociali. Infatti, compreso l'ordine di Gesù, Pietro chiese: Signore, quante volte peccando il mio fratello contro di me gli perdonerò io? Pietro chiese a Gesù quante volte egli dovesse perdonare il fratello che avesse fatto un torto a lui e non ad un altro. Nessun giudeo, nessun cristiano, neppure Pietro, avrebbe mai considerato di perdonare dei peccati che non fossero rivolti verso di sé. Tale atto compete solo a Dio. Tenendo presente il contesto, possiamo riscontrare che l'ordine di Gesù di perdonare i peccati al prossimo fosse riferito ai rapporti interpersonali. Il ritenere o rimettere i peccati si riferisce al perdonare o meno il proprio fratello. Capacità, questa, data a tutti. Chi ritenga di avere l'autorità di perdonare i peccati che non lo riguardino personalmente commette l'abuso più mostruoso che una creatura possa commettere, giacché così facendo egli si mette al posto di Dio. Tale peccato accomuna l'uomo con Satana, che volle diventare simile al suo creatore. Una simile riflessione non ti può lasciare indifferente. Se riconosci che sia vera, non perdonare alcun peccato che non ti riguardi. Se non riconosci che sia vera, accertati che la tua convinzione sia giusta prima di scartarla a priori. La posta in gioco è troppo alta. L'ordine di Gesù di perdonare le offese personali ha lo scopo di evitare conseguenze negative a chi non lo pratichi. Il comportamento che teniamo con il nostro simile, le cose che avete legate, ha una ripercussione in cielo. Dio ne tiene conto. Perdonate e vi sarà perdonato. Il senso del discorso di Gesù è dunque questo: nel modo in cui voi vi comportate verso il prossimo, quando questo pecca contro di voi, così si comporterà Dio nei vostri confronti. Non ha forse sentenziato Gesù: con la misura con la quale misurate sarà misurato a voi? Matteo 7, 2. Questo criterio è tanto importante che Gesù, nella preghiera modello del Padre nostro, ci insegna a chiedere: rimettici i nostri debiti come noi li abbiamo rimessi ai nostri debitori. Cioè, Signore, comportati con noi come noi ci siamo comportati verso gli altri. Milioni di persone ogni giorno formulano questa preghiera. Che cosa può fare Dio se non soddisfare la nostra richiesta? Dandoci in mano agli aguzzini, Matteo 18 e 34, che possono simboleggiare sia gli uomini malvagi che le circostanze negative. Ricordiamo che, delle sette richieste presenti nella preghiera del Padre nostro, Gesù sottolinea, solo, quella relativa al perdono. Chi può, dunque, rimettere i peccati? I peccati possono essere rimessi da Dio solo. E, per questo, quando era sulla terra, Gesù rimise i peccati che gli uomini commettevano contro Dio. La domanda del sacerdote Eli, rivolta ai suoi figli, è più che mai solenne. Se un uomo pecca contro un altro uomo, Dio lo giudica, ma se un uomo pecca contro l'Eterno, chi intercederà per lui? Nessuno. Vi sono peccati però che solo tu puoi e devi perdonare. Ecco perché Gesù si rivolge a Pietro in modo personale. Essi sono quelli commessi contro di te. Solo questi. Forse ti chiedi, come puoi essere certo di aver perdonato il tuo prossimo, oppure no? Personalmente ho trovato una risposta efficace. Ho perdonato i peccati al mio prossimo quando non lo ritengo più debitore del torto che mi ha fatto. Quando guardo il mio fratello, che non mi debba più nulla, scuse, soldi, eccetera. Quando ne pago il prezzo, perché perdonare significa vivere con le conseguenze dei torti di un'altra persona. Disonore, perduta verginità per chi è violentata, salute. Allora, il mio perdono è assoluto. In cielo, Dio riterrà il fratello non colpevole, ed io, non offeso, il vantaggio è notevole, perché Dio mi tratterà nella stessa maniera. Gesù ammonì, perché se voi perdonate agli uomini le loro colpe, il Padre vostro celeste perdonerà anche a voi, ma se voi non perdonate agli uomini, neppure il Padre vostro perdonerà le vostre colpe. Così, se io non farò come Dio che perdona, Dio farà come me, non mi perdonerà. Quindi, o sono io ad imitare Dio, o è Dio ad imitare me. E meglio imitare Dio ed entrare in cielo senza avere conti in sospeso. Benedici, anima mia, l'Eterno, e non dimenticare alcuno dei suoi benefici. Egli perdona tutte le tue iniquità e guarisce tutte le tue infermità. Salmo 103, 2 a 3. Febbraio 2003. Ellero.